Bene, adesso questa, come detto, era Iannacci con Dag Alterung Fandango, e adesso viceversa ospitiamo una telefonata di una compagna che ci aiuta a ricordare un'altra compagna che è morta pochi giorni fa e che vogliamo ricordare perché insomma era una compagna molto impegnata, molto brava. Pronto? Sì, buongiorno, un saluto alla radio. Sì, molto brevemente, però mi sembrava doveroso, ma anche un piacere, che anche in questa giornata di lotta antifascista, antirazzista, venisse ricordata ai microfoni della radio Laura, questa compagna del Trullo, Laura La Rossa, Laura La Roscia, conosciuta insomma un po' in tutta Roma, e che ci ha lasciato pochi giorni fa. Purtroppo io non sapevo neanche della sua malattia, e è stato insomma comunque un fulmine. E sì, lo è stato per tutti proprio, sì. Della sua morte, so che questa mattina nel paese di sua mamma, a Poggi Ponti, c'era la camera ardente. Sicuramente insomma i compagni del Trullo nei prossimi giorni ci faranno sapere anche di un saluto collettivo che giustamente le compagne e compagni di Roma vorranno dare a Laura. Oggi è una giornata antifascista, una giornata antirazzista. Io ho conosciuto Laura proprio su questi temi, insomma, quando da ragazzine dal Trullo, io stavo a Pirateria, insomma, ci riuniva tutti insieme per combattere i fascisti negli anni 90, insomma, soprattutto in quel quadrante di città si facevano sentire. Anche recentemente insomma abbiamo avuto a che fare sulle lotte del precariato, contro il precariato, la questione della Mayday, eccetera, insomma una compagna sicuramente attivissima che tutta la città di Roma conosce e che anche con la radio ha avuto tantissimo a che fare, è sempre stata molto generosa, sempre insomma. Mi ricordo quando ero più giovane i concerti che facevamo al Trullo, sempre molto belli, uno in particolare quando vennero portati Chumbawamba a Roma, insomma, che fu un evento spettacolare proprio al centro sociale al Trullo, venne fatto proprio in quel centro sociale dove la radio in quegli anni faceva diverse iniziative, soprattutto perché era appunto un piacere. E era anche giovane, no? Sì, eravamo entrambe giovani. Era anche giovane, sì, certo, infatti questa è la cosa che più, insomma, poi la morte è una cosa che ci appartiene a tutti e a tutti. Purtroppo ecco, si riesce sempre difficilmente ad affrontarla collettivamente e a parlarne, sì. Laica e comunista. comunque, diciamo che pure stamattina altre compagne mi hanno chiamato, mi ricordavano insomma di lei a Genova, quando fu costretta a buttarsi giù dal muretto perché le guardie la volevano massacrare di botte, insomma famoso anche un video su questo, si ruppe la gamba, insomma diciamo che è stata una compagna che in tutti questi anni ha accompagnato tutte le lotte che hanno attraversato questa città, l'Italia, ha attraversato Milano, essendo lei di quella città, e che ha avuto sempre un rapporto con la radio insomma molto bello e vicino, lei l'amava tantissimo. Per cui mi sembrava generoso, doveroso e anche piacevole insomma, ricordarla da questi microfoni. È stata un'emozione, però. Certo, insomma, e ovviamente insomma anche noi ci uniamo a questo tuo ricordo, rammaricandoci per quel che conta, ma comunque per non averla seguito in questi ultimi suoi giorni, in questa sua malattia che poi se l'è portata via del tutto, insomma le notizie sono mancate, è mancata questa solidarietà, no, che in altre circostanze almeno si manifesta e che dovrebbe essere sempre presente insomma fra di noi compagni e compagni. Sì, perché magari tante volte, io non so adesso come sia andata la vicenda, ma magari si interpreta in un certo modo la riservatezza delle persone che si trovano coinvolte in questo ultimo tratto di vita, no? Però forse invece sarebbe opportuno condividerlo, poi si vede quello che succede insomma, ma non togliere a chi ha voluto bene a questa compagna o in altre circostanze che purtroppo negli anni si ripetono, non togliere appunto la possibilità di stare vicino a lei o ad altri e altre proprio in questi momenti più difficili, facendo coraggio a se stessi, facendo coraggio a lei se serve, ecco insomma magari riflettere su questo. No, infatti questo sicuramente è mancato, sicuramente la città di Roma oggi la porterà a piazza con lei e questo sarà un ricordo importante. So che anche le compagne delle Cagne Sciolte hanno scritto delle righe che marzo prossimo, quando ci sarà la manifestazione a fianco della resistenza delle donne curde, domenica mattina l'8 marzo, insomma, lei sarà con noi anche quel giorno, sicuramente. Grazie alla radio, insomma, per questo spazio e questo saluto, e sempre buona lotta. Grazie a te, grazie a te, ciao.